Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. D'ora in poi possiamo definitivamente ritenere chiusa l'esperienza politica e morale della Prima Repubblica. L'ultima tradizione è disapplicata, cioè la non belligeranza politica dell'esponente politico che ricopre un'istituzione come la presidenza della Camera. Dal caso Englaro in poi, Gianfranco Fini, presidente della Camera, interviene quasi quotidianamente nel dibattito politico d'attualità. Prima sui temi etici, ora sui temi strettamente politici. Lo dico senza voler dare a ciò un'accezione negativa, è solamente un dato di fatto. Dalla nascita della Repubblica, chi ricopriva incarichi istituzionali a livello nazionale, come quello di Fini, era imbalsamato nello stereotipo dell'arbitro fuori dal dibattito politico. Fino ad ora, salvo poche eccezioni e di limitata portata, questa tradizione è sempre stata seguita. Ma ora la politica, sempre più dettata dall'apparire all'elettorato attraverso i mass media, ha imposto ad un leader politico del livello di Fini, per non essere dimenticato, l'intervento attivo. Ciò non è un male o un'involuzione della politica, ma è semplicemente un cambiamento. E come tutti i cambiamenti, va gestito. In altre parole, se al presidente della Camera si permette di avere una vita pubblica attiva, occorre anche che mantenga un atteggiamento imparziale durante i lavori parlamentari. Quindi si deve prevedere un'eventuale destituzione, nella pratica realizzabile, nel caso in cui non dia più garanzia di imparzialità durante le sedute parlamentari. Sul caso Fini, va peraltro detto che nessuno ha criticato, salvo rare eccezioni, l'interventismo di Fini, perché fa comodo a tutti limitare l'imperatore Silvio. Il PD ringrazia, non riuscendo a creare una concreta opposizione, l'alleato Fini delle critiche al Cavaliere. Mentre nel PDL non vi è una levata di scudi, essendo una lotta in famiglia che potrebbe indebolire entrambi i contendenti. D'ora in poi, comunque, la Prima Repubblica è definitivamente morta. Se sia nata o come sia la Seconda Repubblica, non saprei proprio dire. Lettera firmata. Valuterei due cose sull'argomento porta a porta, Ballarò, eccetera. Primo. È vero che si spostano i palinsesti televisivi, ma la consegna di vere case a 5 mesi dal terremoto è realmente un evento. Ma vi ricordate del Belice? Chi critica questo esecutivo dovrebbe ricordarsi le vergogne dei governi passati e stare zitto. Secondo, è vero che si oscurano Ballarò, Matrix, eccetera, ma Berlusconi ha consentito al Milan di giocare con il Marsiglia. Mi aspettavo ritirasse la squadra per evitare che qualcuno guardasse la partita al posto della sua santificazione su Rai 1. Alessandro, Treviso. Siamo il paese dove i vizi tendono ad essere riposizionati come virtù. Se per la consegna delle prime 90 casette dopo il terremoto, mentre altri 40.000 senza tetto ancora aspettano in tenda, si stravolgono i palinsesti televisivi, si profila la prospettiva di nuova stagione televisiva con porta a porta in prima serata ogni volta che un treno arriverà puntuale, o un tratto stradale verrà riparato, o un dipendente della pubblica amministrazione compirà il proprio dovere. Orrenda visione. Donato, Como. Mi risulta incomprensibile come, nell'orgia delle polemiche inutili sull'argomento Vespa, Ballarò ed altri, nessuno faccia notare che la RAI interrompe per più di 4 mesi all'anno tutte le trasmissioni di cosiddetto approfondimento, che dovrebbero essere un'estensione dell'informazione cui tanto tengono i giornalisti RAI. Ora, poiché credo che il diritto all'informazione sia quello degli informati e non degli informatori, che hanno oltre al diritto soprattutto il dovere all'informazione, mi sembra surreale e capricciosa la polemica di uno spostamento di alcune ore di una di queste trasmissioni alla ripresa autunnale, dopo mesi di silenzio, come se nei mesi estivi non succedesse nulla da approfondire. Ripresa autunnale che vedrà un affollamento pletorico di tali trasmissioni. Domando, perché litigano per poche ore di differenza sul tema del diritto dovere all'informazione? Questo diritto dovere, da maggio a settembre, dove va a finire? Lettera firmata. Cara Radio 24, scrivo da Amsterdam, dove sto concludendo il mio tirocinio internazionale. Ascoltando in podcast i servizi e le trasmissioni sull'eurodeputato italiano che ha parlato in napoletano a Bruxelles, mi è tornato in mente un evento che, a parti invertite, rimanda proprio a questa vicenda. Alcuni anni fa, in occasione di un discorso di Ciampi al Parlamento europeo, i parlamentari leghisti sventolarono bandiere padane, fischiando all'indirizzo di Ciampi, loro presidente e rappresentante. L'azione del parlamentare napoletano non è troppo diversa. Mi vergognai anni fa dei parlamentari leghisti. Mi vergogno ora di quest'uomo. Come si può presenziare al Parlamento europeo inneggiando alle istanze minoritarie che con l'allargamento politico e culturale non hanno nulla a che vedere? Il mondo corre verso l'interculturalismo e noi dimostriamo la nostra pochezza berciando sciocchezze di fronte all'intera Europa. Io provo reale vergogna e credo che quest'uomo, le cui parole in diretta poi erano esilaranti, faceva della sua magra apparizione una sorta di questione d'onore, quando in realtà ha solo seccato gli altri europarlamentari. Dovrebbe seriamente dare le sue dimissioni perché, per quanto io non abbia votato quel parlamentare, sono comunque rappresentato da lui in quanto italiano. A tale proposito, lui ha un dovere nei miei confronti. Non possiamo seguire la teoria berlusconiana secondo cui chi viene eletto risponde solo ai suoi elettori. Un politico risponde allo Stato, in quanto eletto per in esso. Andrea. In merito all'uccisione della giovane marocchina, mi dispiace che si voglia dare fiato alle trombe del conflitto religioso che secondo me non sussiste assolutamente in questo caso. A mio avviso è piuttosto un problema che riguarda la famiglia. Un conflitto generazionale e culturale fra genitore immigrato e figlio cresciuto in un contesto culturale e sociale molto diverso da quello del genitore. I genitori immigrati non si rendono conto che i loro figli non sono per niente come loro. Il genitore immigrato immerso nel lavoro non si rende conto che la sua famiglia, e in particolar modo i suoi figli, li cresce la società che li circonda e non lui. Non si rendono conto che hanno frequentazioni differenti sia sul piano culturale che spesso sociale. Ecco dov'è il problema. È un problema di conflitto generazionale interfamiliare. Altro che religioni. Il delitto d'onore non era tollerato fino a pochi decenni fa dalla legge italiana. Perché? Mica perché la religione lo prevedeva. Era tollerato perché la società lo prevedeva. Non voglio che si creda che giustifico il padre. Lo condanno fermamente. Ma vi chiedo, quanti genitori italiani e non vedrebbero di buon occhio la relazione della propria figlia diciottenne con un trentunenne? Se fosse stato l'opposto, e cioè il maschio straniero e la figlia italiana, quale sarebbe stata, nella maggior parte dei casi, la posizione dei genitori italiani della ragazza? Pertanto ritengo che bisogna lasciare fuori dalla discussione le differenze di religione e vedere il problema nella sua giusta sfera, e cioè sul piano culturale. Inoltre, anche se la giovane fosse stata adultera, nella Sharia islamica il padre sarebbe stato condannato per l'uccisione di una persona, in quanto il più ortodosso giudice di qualsiasi tribunale religioso islamico non avrebbe potuto riconoscere una pena superiore a 100 frustate non violente e un anno di esilio. Jamil. Mi chiamo Paolo. Mi rendo conto delle difficoltà di parlare di regime in Italia e credo che affermazioni iperboliche, come quelle di Franceschini, si rendano ridicole autonomamente e tendano a sottrarre voti e non a creare consensi. È del tutto evidente che non viviamo in un regime che scioglie i partiti, chiude i giornali e bastona gli oppositori. È evidente che le libertà fondamentali dell'uomo sono rispettate. Ma mi sembra anche che viviamo per la prima volta in quella che potrebbe essere definita società dell'immagine in tutto e per tutto. Non ne faccio una questione di perbenismo, ma credo che non sia più il pensiero a creare il consenso, bensì siano la presenza e la visibilità. Non mi soffermo sul nostro Presidente del Consiglio che quasi quotidianamente, quasi fosse una strategia, si copre di ridicolo tra ammiccamenti ed uscite estemporanee, davanti ad autorità e personalità di varia provenienza ed estrazione. Parlo di un'intera classe politica. L'importante è esserci e mostrarsi, e fare anche un po' di talk show, di proclama. Nella politica dell'immediato tutto si dice, ed il giorno dopo si contraddice, e la presenza momentanea si sostituisce alla coerenza del pensiero. Io penso che il nostro sia sì un regime, ma oligarchico, non una dittatura. Noi viviamo una fase politica in cui i partiti lottano per sopravvivere perché nulla cambi, perché chi li guida insista e resista. In questo senso l'occupazione televisiva è fondamentale. È un regime passivo. Non colpisce, non chiude, non serra le fauci. In un certo senso avviluppa, trae la sua forza da un complessivo addomesticamento della società. nell'abbattimento della capacità critica. Ricordo che quando ero studente la cultura, la partecipazione, la socialità erano cose importanti. I giovani d'oggi sono spenti nel loro spirito critico e gli intellettuali assoldati nel meccanismo. Di conseguenza i motori del cambiamento sono ingolfati da cattivi carburanti. Un consumismo esasperato ed un apparente benessere ed una società che sempre meno chiede in termini di forza di volontà e capacità di arrivare e distinguersi. Se si pensa che questo stia nell'ordine delle cose, vorrà dire che siamo in una fase normalmente decadente, come altre ve ne sono state. Se invece si pensa che tutto ciò sia un progetto, allora forse è realmente un regime. Distinti saluti, Paolo. Come si sa, da oggi va in scena la terza edizione del film Arriva lo scudo, che non è certo un cortometraggio dedicato al ben noto furgone della principale casa automobilistica italiana, ma l'ennesima ingiustizia fiscale ai danni di tutti i cittadini onesti che pagano le tasse. Ovvero il famigerato scudo fiscale, l'operazione di regolarizzazione e recupero dei capitali non versati al fisco che è stata varata un paio di giorni fa. Per quanto mi riguarda, dato che non rientro nella categoria di coloro i quali hanno denari, titoli, yacht, opere d'arte, dobloni o gioielli da regolarizzare, avrei solamente una richiesta da sottoporre al nostro beneamato Tremonti. Un misero sconticino sulla dichiarazione dei redditi che ogni anno tutti quelli come me compilano regolarmente per sostenere questo paese dove i farabutti la fanno sempre franca. Marino, Reggio Emilia. Caro direttore, da un po' di tempo ricevo mail che mi portano all'attenzione una legge del governo che vorrebbe privatizzare la distribuzione dell'acqua. Se questo è vero, credo che privatizzare la distribuzione di un bene così importante sia, almeno a prima vista, una grossa discriminazione per chi è più debole. E ciò è ancora più grave in questo periodo di crisi. È anche vero che occorre trovare dei meccanismi per diminuire lo spreco di questo bene così prezioso. E non so se la privatizzazione voglia arrivare a questo. Purtroppo non credo. Forse ci sono altri aspetti importanti, ma purtroppo mi sfuggono. Per tutti questi motivi, credo importante che i media si occupino di questo tema tramite dibattiti e approfondimenti, lasciando perdere per un po' argomenti come veline, escort e tutto ciò che serve solo a buttare fumo negli occhi alla gente comune. Cordialmente, Daniele. Gentili signori, ascolto spesso e volentieri Radio 24. La notte è più che di giorno, se non altro perché non ci annichilite con le canzonette. Ma perché soprattutto nei GR date notizie sul governo e su Berlusconi senza poi nemmeno citare che cosa pensa l'opposizione? Non dico di fare i panini come i telegiornali, ma almeno ricordatevi che non c'è solo la voce della maggioranza, c'è anche quella dell'opposizione. Un dubbio mi viene da un po' di tempo, ma mica per caso il Cavaliere sta comprando anche questa radio? O forse ha già comprato la testa di qualcuno. Mario. Caro Mario, vorrei rassicurarla. Berlusconi non ha comprato né la nostra radio né le nostre teste. Del tutto liberamente ci permettiamo di dare le notizie, e i discorsi del capo del governo sono una notizia, senza bisogno di un immediato controaltare. Così come informiamo di quanto si muove nell'opposizione senza l'angoscia di bipolarismo a tutti i costi. Pensiamo che gli ascoltatori sappiano ragionare secondo le loro idee, senza la necessità di suggerire loro un giudizio. E pensiamo che il dibattito politico non si debba sempre risolvere in un governo che dice qualcosa e in un'opposizione che non è mai d'accordo. Non ci piacciono, in gergo radiofonico, né i panini né le pagnotte. La libertà è un'altra cosa. E noi, per fortuna, ci sentiamo liberi, magari anche di sbagliare. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.